Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Ed eccoci qui, carissimi, a ricominciare, a riprendere in mano la vita di San Giovanni Bosco, che avevamo interrotta nel novembre scorso, quando, avendo completato il primo volume della sua biografia, scritta da Lemoine, abbiamo preferito fare un lungo intervallo dedicato, diciamo pure, al capolavoro dell'oratorio di Don Bosco, vale a dire a San Domenico Savio, la cui vita ci ha pure molto edificato e affascinato. Ma ora, carissimi, gli ascoltatori di Radio Maria premono perché si riprenda in mano questa vita, la vita di questo meraviglioso sacerdote, che col suo grande amore alla gioventù, nonché coi suoi metodi educativi e pedagogici, ha lasciato veramente una traccia profonda nella storia della Chiesa, e direi che ha indicato alla stessa Chiesa degli obiettivi fondamentali che forse fino a quel momento erano rimasti un po' nell'ombra, vero? Comunque, riprendendo la sua vita, dobbiamo ora dedicarci subito come primo capitolo alla consacrazione, quindi all'inaugurazione della grande Basilica Auxilium Christianorum, Basilica dell'Ausiliatrice, che avvenne precisamente l'8 giugno 1868, quando perciò Don Bosco aveva quasi 53 anni. Come sapete, questo santuario era stato, diciamo pure, comandato, era stato ordinato a Don Bosco dal Signore stesso, ovvero dal cielo, anche attraverso quei famosi sogni visione di cui lo stesso Don Bosco era frequentemente favorito, tanto da essere considerato dai suoi amici, dai suoi condiscepoli, un po' un sognatore, vero, come il famoso antico Giuseppe biblico. Ed ecco che ora, finalmente, dopo tante fatiche e tanti sacrifici, il santuario era pronto. Ecco, però badate, era pronto come muri, sì, ma all'ultimo momento, quando ormai si avvicinava la data prevista per la consacrazione, il santuario era ancora completamente spoglio, ossia mancava del tutto l'arredamento, specie gli arredi sacri che occorrono per le sacre funzioni liturgiche. Sentiamo allora dallo stesso Don Bosco come arrivarono questi arredi nel giro di 2 o 3 settimane al massimo. Parla Don Bosco, ascoltiamolo. Dice: noi eravamo pressoché alla vigilia della consacrazione, narra Don Bosco, e ci mancavano ancora quasi tutti gli oggetti necessari per il servizio religioso. Ma Dio, che è padrone dei cuori degli uomini, ispirò a più persone di farci avere quanto occorreva. Senza che ne fosse richiesto, uno cominciò a mandarci un calice veramente elegante. E questo è un dono del dottor Tancioni, celebre professore di medicina e chirurgia all'Università di Roma. Per grave malattia, trovandosi all'estremo della vita, perduta ogni speranza nei mezzi umani, venne dagli amici incoraggiato a fare una novena a Maria Ausiliatrice, con promessa di fare qualche dono alla chiesa di Valdocco se guariva. Dalla promessa all'essere fuori di pericolo passò appena la metà della novena. E quel che reca più meraviglia si è che, o per grazie ricevute o per devozione, sembrava ci fosse uno che andasse a significare a ciascun altro quanto occorreva per quella solennità. Una signora francese di alto lignaggio, la duchessa di Montmorency, inviò a sufficienza camici, cotte, amiti, corporali, tovaglie e tovagline con alcune pianete. Un senatore torinese provvide candelieri, croci, carte gloria per tutti gli altari, di poi volle aggiungervi la cera. Mancavano ancora le candele per 2 altari e ci furono inviate da un insigne benefattore di Firenze. Un'altra signora fiorentina offriva un elegante incensiere con navicella. Mancavano piccole candele per le messe lette e un torinese le provvide. Leggete con pazienza, o amici, e facciamo le meraviglia col Signore. Piviali, tunicelle, pianete, messali, incensiere, navicella, cera, lampade ordinarie, olio per le medesime, campanello per la sacrestia, campanelli per i singoli altari, tovaglie di vario genere, ampolline e perfino le funi delle campane vennero in breve tempo provvedute, ma in modo e misura che nemmeno un oggetto restò duplicato e senza che neppure uno di essi ci fosse mancato nel bisogno. E aggiunge qui il biografo e dice: e questo si verificò anche per quanto era in quei giorni necessario a tutto l'oratorio per il vitto. Talché Monsignor Ghilardi, vescovo di Mondovì, ebbe ad esclamare: chi dicesse che gli oblatori di tante svariate offerte non siano stati mossi dallo Spirito del Signore, negherebbe la luce del sole in pieno mezzodì. Ecco, dunque si ripeté in pratica, per quanto riguarda gli arredi sacri, si ripeterono un po' gli stessi, direi, misteriosi fenomeni che accompagnarono un po' tutta la costruzione del santuario Auxilium Christianorum, cioè offerte spontanee, in genere per grazia ricevuta, che i fedeli davano e danno generosamente e sempre al momento giusto. Ecco, spesso il Signore ama questi scherzetti, vero? Per esempio, lasciandoti mancare tutto fino all'ultimo momento. E poi, quando ormai le cose si mettono male e c'è il rischio che tutto vada a catafascio, vada a monte, ecco che mani misteriose e imprevedibili ti porgono l'aiuto che ti è necessario. E con una generosità, con una sovrabbondanza davvero incredibile e imprevedibile. E questo, se vogliamo, carissimi, è stato un po' il clima, vero, il clima prodigioso in cui Don Bosco è sempre vissuto, vero, fin dalla giovinezza. Cioè un clima di povertà, e spesso di povertà direi assoluta, cui però la provvidenza poneva sempre rimedio. E badate, sempre al momento giusto, e con gli aiuti più mirati, più opportuni per quel momento. Ecco, adesso sostiamo solo un attimo e poi riprendiamo raccontando le meraviglie che ne fanno i torinesi. Allora, carissimi, adesso veniamo allo stupore e alle meraviglie dei torinesi. Badate, Don Bosco per i torinesi o era un santo o era un pazzo. Ossia era un uomo decisamente fuori del comune, che faceva spesso cose strane e umanamente impossibili e riusciva spesso a sfondare contro tutte le previsioni che lo davano perdente 99 su 100. Sentiamo allora questa bella pagina del nostro biografo, appunto sulle meraviglie dei torinesi. Dice: i torinesi stupivano nel vedere ultimato il sacro edificio, specialmente alcuni che avevano ricordato con ironia le parole del Vangelo. Chi è tra voi che, volendo edificare una torre, prima non si siede a computare la spesa per vedere se ha con che condurla a termine? Onde non avvenga che, gettato il fondamento, non potendo finirla, tutti i riguardanti non comincino a farsi gioco di lui, dicendo: costui ha cominciato a fabbricare senza poter finire. Don Bosco aveva iniziato i lavori non solo senza fare i conti, ma senza avere i mezzi. Quindi non deve far meraviglia che più di uno lo avesse accusato di imprudenza. Mentre si stavano gettando le fondamenta, un bravo sacerdote gli diceva che avrebbe mangiato un cane il giorno che avesse veduto coi propri occhi il nuovo tempio giungere al tetto. Quando ne vide annunziata la consacrazione, tornò a presentarsi al servo di Dio e, nel mettergli in mano l'offerta, sorridendo, lo pregava a volerlo dispensare dalla promessa fatta di mangiare un cane. Anche il teologo Margotti, sedendo in quei giorni a mensa nell'oratorio con alcuni forestieri, francamente brindava così al santo: dicono che Don Bosco ha scienza e io non ci bado, anzi gliela getto in faccia. affermano che Don Bosco è un santo e io me ne rido. Dicono che Don Bosco fa dei miracoli e io non discuto. Ma c'è un miracolo che io sfido chiunque a negare. Ed è questa chiesa di Maria Ausiliatrice, venuta su in 3 anni e senza mezzi. Una chiesa che costa 1 milione. 1 milione certo era una cifra incredibilmente alta per quei tempi, eh? Come dire, parecchi miliardi di oggi. Dunque Don Bosco non è uno scriteriato che mettendosi a costruire non calcola la spesa, ma è piuttosto un uomo ispirato che costruisce anche cose grandiose, come appunto il santuario dell'Ausiliatrice, sapendo di far conto su qualcuno che in fondo è padrone di tutti i soldi del mondo, ed è padrone quel che più conta di tutti i cuori degli uomini del mondo. E volesse il cielo, carissimi, che anche noi sacerdoti potessimo avere questa sua fede, vero? E diciamo pure anche un po' questa sua santa incoscienza. È che io penso proprio, carissimi, che la provvidenza di Dio ami anche un po' essere provocata, vero? Non dico nelle cose voluttuarie, ma senz'altro nelle cose necessarie, come può essere la costruzione di una chiesa. E sì, perché Dio è un tipo, si direbbe, molto orgoglioso, è vero? Anche se in questo caso di un giusto orgoglio, per cui non ama cedere a nessuno la sua gloria e ama al contrario far conoscere a tutti la sua potenza, cosicché fa mancare talvolta anche il necessario proprio per sottolineare poi meglio il suo intervento, in modo che gli uomini lo possano lodare ed esaltare come merita. Facciamo una piccola pausa silenziosa, poi riprenderemo subito con un altro fatto. Beh, ora carissimi, dovrei riferirvi dei molti miracoli che accompagnarono e seguirono immediatamente la consacrazione della Basilica. Ma badate, sono così tanti, sono così numerosi, che tutti non ve li posso raccontare. Dovete sapere che i festeggiamenti a questo proposito durarono ben 8 giorni, fra cui in mezzo c'era anche il Corpus Domini, no? Il giovedì del Corpus Domini. E si può dire che in ognuno di questi 8 giorni, in ogni giorno di questo ottavario, ci fu qualche miracolo, quasi a significare che la Madonna è davvero ausiliatrice e aveva gradito davvero questo tempio a lei dedicato. Per cui, carissimi, essendo troppi, ne raccontiamo solo qualcuno, precisamente i miracoli del primo giorno, è quello stesso della consacrazione. Immaginiamo la scena. La consacrazione è già avvenuta al mattino, poi c'è stato il pranzo, cui hanno partecipato anche molti vescovi, e ora nel primo pomeriggio Don Bosco è circondato da una folla numerosissima di devoti. Ecco, immaginiamo la scena e ascoltiamo il racconto. Un attimo solo. Dice, la moltitudine si stendeva per lungo tratto in cortile. V'erano malati che domandavano la guarigione, devoti che volevano baciargli la mano, curiosi che ammiravano lo spettacolo di un uomo tanto desiderato. Ed egli ascolta tutti con somma carità e dà a tutti la benedizione. Uno gli dice di essere venuto per ottenere sollievo da un gran mal di denti. Don Bosco gli suggerisce la recita di un'Ave Maria. Quegli obbedisce ed è libero all'istante. Un altro, che da anni non vedeva più, riacquista istantaneamente la vista. Era un fremito di commozione e di gioia universale. Era il preludio delle meraviglie che da quel giorno, assai più chiaramente, avrebbe operato per mezzo del santo Maria Ausiliatrice. Il 10, mercoledì, un uomo dall'aspetto signorile si confessa, si comunica e, fatto il ringraziamento, ritorna in sacrestia a presentare un'offerta al santo e gli dice: «Pregate per me e narrate a tutto il mondo le meraviglie che il Signore compie a intercessione di Maria Santissima». Allora Don Bosco chiede: «Si può sapere chi sia lei e qualcosa l'abbia condotto qui?» Risposta: «Io vengo da Faenza. Avevo un bambino, unico oggetto delle mie speranze. Caduto ammalato a 4 anni di età, non gli si dava più speranza di vita e io lo piangevo inconsolabilmente come morto. Un amico, per consolarmi, mi suggerì di fare una novena a Maria, aiuto dei cristiani, con promessa di qualche oblazione per questa chiesa. Promisi tutto e vi aggiunsi il voto di venire personalmente a fare la mia offerta, accostandomi qui ai Santissimi Sacramenti, se ottenevo la grazia. Dio mi esaudì. Alla metà della novena mio figlio era fuori pericolo e ora gode ottima salute. Egli non sarà più mio, ma lo chiamerò per sempre figlio di Maria. Ho viaggiato 2 giorni. Ora, avendo compiuto la mia obbligazione, riparto consolato e benedirò sempre la Madre delle Misericordie, Maria Ausiliatrice. Ecco, sentiamo subito un altro episodio, capitato un paio di giorni dopo. Dice: subito dopo arriva una madre con una figliola di circa 13 anni e prende a dire: ecco, sono venuta a compiere la mia obbligazione. Chi siete voi? Gli chiede Don Bosco. Io sono Teresa Gambone, madre di questa fanciulla di nome Rosa. Donde venite? Veniamo da Loggia di Carignano. Per qual motivo siete qua venute e perché vostra figlia ha tanta gioia in volto? Ah, non si ricorda più? Questa figlia fu condotta qui poco tempo fa come cieca. Pativa male agli occhi da 4 anni. I medici la dicevano cieca ed ella, in vero, stentava a distinguere la luce dalle tenebre. Si fece dare la benedizione, praticò alcune preghiere da lei suggerite in onore di Maria Santissima, da Pasqua all'ascensione del Signore, e quel giorno era perfettamente guarita. Ora siamo venuti a ringraziare la Madonna con una tenue offerta. Siamo poveri braccianti di campagna e non possiamo fare di più, ma conserveremo per sempre la memoria di tanta grazia. Sentiamo quest'ultima. Dice: giunge una paralitica portata su un carretto, tirato da un umile giumento. Il conducente ha un bel gridare alla folla di fare largo, volendo avvicinarsi a Don Bosco, ma non gli è possibile dare un passo. L'inferma, che non poteva muoversi da tanto tempo, impaziente dell'indugio, senza avvedersene, salta giù dal carro e, aprendosi un varco, arriva al santo e solo quando è al suo cospetto si accorge di essere guarita. Il suo grido di meraviglia è ripetuto dagli altri. I parenti piangono per la commozione e vogliono sottrarla agli sguardi della moltitudine. Sono guarita, ella continua a ripetere. Lo vediamo, vieni a casa. No, prima voglio andare a ringraziare la Madonna. Dunque, ciechi che vedono, storpi che camminano, moribondi che risorgono, eccetera. Ecco, c'era abbastanza per dire: qui c'è proprio il dito di Dio. I miracoli cosa sono? Sono appunto segno della presenza di Dio fra noi, vero? Ma sono anche, soprattutto direi, segno dell'amore di Dio per noi. Ma in questo caso direi che sono segno molto anche della potenza e dell'amore di Maria per noi, vero, sia di quella Madonna, di quella Santa Vergine che vuole essere appunto chiamata col titolo di aiuto dei cristiani, un titolo che certo non è nuovo nella storia della Chiesa, ma che comunque Don Bosco ha avuto la saggezza, ha avuto il merito di riesumare, di riproporre al popolo cristiano, un titolo direi sempre di moda. E senza dimenticare, carissimi, che la Basilica sorge proprio nel luogo dove diedero la vita, diciamo, i 3 fondatori della comunità della Chiesa torinese, i famosi martiri Avventore, Solutore e Ottavio, quindi nello stesso luogo dove la Madonna aveva già aiutato questi tre primi apostoli a dare questa loro suprema testimonianza di amore e di fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Perciò il miracolo più importante e anche il più impegnativo, direi, è che noi dobbiamo chiedere alla Madonna Ausiliatrice qual è. Ecco, è proprio quello di aiutarci a cambiare vita e ad essere sempre dovunque dei validi testimoni di suo figlio e di Cristo suo figlio. un attimo di pausa soltanto. Beh, ora carissimi, mi pare bello riferire anche del famoso pellegrinaggio che avvenne proprio in quell'ottavario, quel famoso ottavario che seguì la consacrazione della Basilica, famoso pellegrinaggio dei Mornesini o Mornesani, ecco, non so come si dica, vale a dire degli abitanti di Mornese. Ecco, ascoltiamo questo racconto perché è come, diciamo, una conferma del racconto precedente e ci testimonia una volta ancora, una volta di più, come l'ausiliatrice sia davvero potente e come ami i suoi figli che ricorrono a lei con fiducia. Ecco, ascoltiamo dunque questo affascinante racconto a pagina 13 di questo secondo volume della vita di Don Bosco. Pagina 13 in fondo, dice: la mattina del quinto giorno dell'ottavario giungevano da Mornese 40 capi famiglia con il sindaco e con il parroco Don Domenico Pestarino, anzi no, non era il parroco, era colui che rappresentava il parroco, per portare i comuni ossequi e i vivi ringraziamenti di tutto il paese per particolari benefici ricevuti da Maria Ausiliatrice. La loro comparsa per la foggia dei vestiti destò non poca meraviglia e alcuni avevano in capo un alto berretto rosso, altri un cappello a larghe falde, altri erano in bracchette e farsetti, tutti in abiti all'antica. Cortesi e garbati si presentarono al santo e Don Pestarino, facendosi loro interprete in presenza di rispettabili e autorevoli personaggi, prese a parlare così. Ecco, sentiamo il discorso di Don Pestarino perché è interessantissimo. Dice: non vi rechi meraviglia, o Signore, il vedere qua raccolti questi rappresentanti del popolo di Mornese. Se non ne fossero stati impediti dai lavori campestri, forse sarebbero venuti tutti. Essi dunque fanno le veci di quanti rimasero alle loro case. Scopo nostro è di ringraziare la Santa Vergine Ausiliatrice dei benefici ricevuti. Maria per noi è un gran nome, ascoltate. 2 anni or sono, molti giovani del nostro paese, dovendo andare alla guerra, si posero tutti sotto la protezione della Santa Vergine, mettendosi per di più in collo la medaglia di Maria Ausiliatrice. Andarono, affrontarono coraggiosamente ogni sorta di pericoli e nessuno rimase vittima di quel flagello del Signore. Cioè tornarono tutti salvi. Inoltre, nei paesi vicini, fece strage la grandine, la siccità e il colera morbus, e noi ne fummo del tutto risparmiati. Benedetti dal Signore e protetti dalla Santa Vergine, l'anno scorso abbiamo avuto abbondanti vendemmie, quali da molti anni non si erano più vedute. In quest'anno, poi, avvenne cosa che pare incredibile a quegli stessi che ne furono testimoni. Una grandine fitta e grossa cade su tutto il nostro territorio e noi ci pensavamo che il raccolto fosse totalmente distrutto. In tutte le case, da tutte le bocche, si invocava il nome di Maria Ausiliatrice, ma continuando la grandine oltre a 15 minuti imbiancò il terreno, come fa la neve quando cade lungamente nella stagione invernale. Si trovavano là alcuni forestieri, e al mirare la costernazione che appariva a tutti in volto, dicevano con malignità: andate, andate da Maria Ausiliatrice, che vi restituisca quanto ha portato via la grandine. Non parlate così, loro rispose uno con senno. Maria ci aiutò l'anno scorso, e perciò le siamo riconoscenti. Se quest'anno continua i suoi favori, avrà un motivo di più alla nostra gratitudine. Ma se Dio ci trovasse degni di castigo, noi diremmo col santo Giobbe: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia sempre benedetto il suo santo nome. Mentre si facevano tali discorsi, sulla pubblica piazza, appena cessata la grandine, giunse uno dei principali possidenti del paese, tutto ansante e gridante ad alta voce: amici e fratelli, non affannatevi! La grandine coprì le nostre terre, ma non fece alcun danno. Venite e andiamo a vedere quanto sia grande la bontà del Signore. Immaginatevi con quale premura ognuno corse a vedere i suoi campi, i suoi prati, le sue vigne, che racchiudevano i tesori e le risorse di ciascuna famiglia. ognuno trovò vero quanto l'amico aveva riferito, sicché in tutto il paese ogni bocca esaltava il nome della Santa Vergine aiuto dei cristiani. Io stesso, interruppe uno dei mornesini, io stesso in un mio campo ho veduto la grandine intorno alle piante di melica che faceva una specie di ripa, ma le piante non avevano sofferto alcun guasto. È voce comune, continuò Don Pestarino, che la grandine non solo non abbia fatto alcun male alle campagne, ma anzi abbia fatto del bene, perciò che ci liberò dalla siccità che minacciava le nostre terre. E dopo tanti segni di benedizione, forse che vi sarà un mornesino che non cerchi di professare la più sentita riconoscenza a Maria? Finché noi vivremo, conserveremo cara memoria di tanti favori, e ci tornerà sempre della più grande consolazione ogni volta che potremo venire in questa chiesa a portare l'obolo della riconoscenza e innalzare una preghiera di gratitudine alla Divina Bontà. Dunque l'ausiliatrice ha potere sulle persone, ma anche direi sulle cose, vero? Sulle cose che appartengono alle persone, perciò ha potere anche sul nostro corpo, oltre che sul nostro spirito. E perciò anche sui nostri affari, sul nostro lavoro, sulla buona riuscita del nostro lavoro. E come aiutava gli uomini di allora, no, che vivevano in una civiltà agricola, volete voi che non aiuti anche gli uomini di oggi, che vivono in un'altra civiltà ma che comunque sono sempre suoi figli? Ma ora, carissimi, vorrei concludere parlando dell'umiltà di Don Bosco, il quale si metteva sempre nell'ombra e non voleva affatto che queste opere fossero attribuite a lui, diciamo la sua bravura, ma solo alla Madonna, alla potenza di Maria. Ecco, sentiamo cosa dice qui l'autore, avremo certo molto da ammirare. Dice: l'inaugurazione del santuario aumentò la stima e la venerazione per Don Bosco. Padre Felice Giordano, degli Oblati di Maria, gli domandava: come va che ella intraprende tante cose e tutte dal niente e poi arriva a proporzioni colossali? Ed egli con profonda umiltà rispose: sappia che io non c'entro affatto. È nostro Signore che fa tutto. Quando il Dio nella sua misericordia vuol fare qualche cosa, come fa a dimostrare che quella cosa è sua? Si serve per metterla in esecuzione dello strumento più disadatto, più inadatto. Questo è il mio caso. E io assicuro lei, che mi conosce da lungo tempo, che se il Signore avesse trovato nell'archidiocesi di Torino un sacerdote più povero e più meschino, quello e non altri avrebbe scelto a strumento delle opere di cui mi parla. E il povero Don Bosco l'avrebbe lasciato da parte a seguire la sua naturale vocazione di semplice cappellano di campagna. Poi dice qui: nella sua umiltà il santo non faceva altro che incoraggiare a ricorrere con fiducia alla Madonna, consigliando questa novena: recitare ogni giorno tre Pater Ave Gloria a Gesù sacramentato, tre Salve Regina Maria Ausiliatrice e le due ejaculatorie sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Maria Auxilium Christianorum ora pro nobis, e accostarsi almeno una volta ai Santi Sacramenti. Ecco, appunto per dire che la grazia veniva dalla Madonna e non certo da lui. E qui una cosa interessantissima, dice: quando poi si vedeva applaudito o accolto da intere popolazioni, come avveniva ogni anno per esempio alle feste titolari del santuario o anche nei suoi viaggi in Italia, Francia e Spagna, con segni di unanime venerazione e con dimostrazioni imponenti da non potersi descrivere. Ecco, allora lui cosa faceva? Oltre che alla bontà di Maria Ausiliatrice, attribuiva abitualmente ogni applauso come un omaggio rivolto alla Chiesa Cattolica e al carattere sacerdotale, ripetendo: ringraziamo il Signore che c'è ancora molta fede nel popolo. Quanta fede c'è ancora nel popolo e come rispettano il carattere e la dignità sacerdotale. Se Don Bosco non fosse cattolico, chi penserebbe a lui? È trattato così perché è sacerdote e non per altro. È bellissimo, eh? E mi pare molto bella questa idea, cioè attribuire gli applausi che ci fanno e gli onori di cui noi sacerdoti siamo oggetto qualche volta, attribuirli alla Chiesa e al sacerdozio cattolico. Diciamo la gloria del sacerdozio cattolico, quella stessa gloria che appartiene a Cristo, vero? e che Cristo a sua volta ha partecipato pure ai suoi ministri. Dunque, se ci fanno gli applausi, accettiamoli volentieri, sì, ma non gonfiamoci di orgoglio, no, ma piuttosto ringraziamo il Signore che dà ancora al suo popolo tanta fede che permette di vedere al di là dell'uomo, al di là della pochezza umana del sacerdote, permette di vedere Cristo, il Cristo Salvatore. Ma comunque, carissimi, dobbiamo convincerci che più grandi sono le imprese che compiamo e più è evidente, e deve essere evidente, l'azione di Dio, vero? Il quale Dio, per le sue più grandi imprese, sceglie sempre persone inadatte, persone umanamente incapaci, appunto per dimostrare che l'opera è sua e soltanto sua. E ora, carissimi, concludo, senza ulteriori commenti, con questa bella pagina, scritta da Don Bosco, per spiegarci l'origine del titolo Auxilium Christianorum. Sentiremo che Don Bosco vuol dimostrare che questo titolo mariano è proprio quello che ci voleva per i nostri tempi, che sono tempi assai difficili e preoccupanti. Per cui il titolo di ausiliatrice è proprio il titolo più adatto, che esalta più che mai la potenza di Maria. Sentiamo cosa dice Don Bosco e così concludiamo. Dice: il titolo di Auxilium Christianorum non è cosa nuova nella Chiesa di Gesù Cristo. Negli stessi libri santi dell'Antico Testamento, Maria è chiamata regina che sta alla destra del suo divin figliuolo, vestita in oro e circondata di varietà. Adstitit regina ad extris tuis investito de orato, circondata varietate, dal Salmo 44. Dice Don Bosco: questo manto indorato e circondato di varietà sono altrettante gemme e diamanti, ovvero titoli con cui si suole appellare Maria, si suole chiamare Maria. Quando pertanto chiamiamo la Santa Vergine aiuto dei cristiani, non è altro che nominare un titolo speciale che a Maria conviene come diamante sopra i suoi abiti indorati. In questo senso Maria fu salutata aiuto dei cristiani fin dai primi tempi del cristianesimo. Però aggiunge qui una ragione molto molto bella e particolarissima. Dice: una ragione peraltro tutta speciale per cui la Chiesa vuole negli ultimi tempi segnalare il titolo di Auxilium Christianorum è quella che adduce Monsignor Parisis con le parole seguenti: quasi sempre, quando il genere umano si è trovato in crisi straordinarie, fu fatto degno, per uscirne, di riconoscere e benedire una nuova perfezione in questa ammirabile creatura che è Maria Santissima, che qua giù è il più magnifico riflesso delle perfezioni del Creatore. Il bisogno oggi universalmente sentito di invocare Maria non è particolare, ma generale. Non sono più tiepide da infervorare, peccatori da convertire, innocenti da conservare. Queste cose sono sempre utili in ogni luogo, presso qualsiasi persona. Ma è la stessa Chiesa Cattolica che è assalita. È assalita nelle sue funzioni, nelle sacre sue istituzioni, nel suo capo, nella sua dottrina, nella sua disciplina. È assalita proprio come Chiesa Cattolica, come centro della verità, come maestra di tutti i fedeli. Ed è appunto per meritarsi una speciale protezione del cielo che si ricorre a Maria come madre comune, come speciale ausiliatrice dei re e dei popoli cattolici di tutto il mondo. E con queste spiegazioni di Don Bosco sul titolo di ausiliatrice, noi concludiamo, carissimi, questa 51ª puntata della sua vita. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.